semplice giudicare. Metti la divisa a lavare, ti giuro nessuno ce l'ha con te. Facile caricare, c'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male. Tutto solo nel tuo pomerino, senza la tua squadra, tu chi sei? Posa il manganello e prendi un fiore, mangiati un gelato con qualcuno. Oggi che festa, ragazzo di destra. Via, adesso faccio un muro, non voglio più vedere. Preparati alle parate, il naso di fratello, li farei tutti fuori. Amore, ti difenderò col tirapugni d'oro, mi darai un figlio naturale la notte di Natale. Cade giù la neve. Facile, non è vero. Tutto solo nel tuo pomerino, senza la tua squadra, tu chi sei? Come me hai paura, ma è una splendida sera.